È noto che i titoli degli articoli dei quotidiani, molto spesso, per zelante eccesso di sintesi, sono fonte di involontario umorismo, se non addirittura di un punto di vista del tutto diverso da quello che era nelle intenzioni dell'articolista. Certe crasi sintattiche, certi accostamenti lessicali, esplicitano significati derivati che costituiscono dei veri e propri punti di fuga del lapsus, smagliature sconvenienti nella trama dell'interpretazione, buchi neri nel cosmo dell'informazione. E quando l'attenzione è catturata da quel buco nero, hai voglia a cercare di rimanere serio, rimani preso nel vortice di quella visione di mondi ignoti e arrivi tuo malgrado a estrapolarne le estreme conseguenze. Un mio amico, che a quei tempi lavorava con le maestranze di un noto quotidiano torinese, una decina di anni fa, me ne raccontava una piuttosto cospicua. Non so se è vera, prendetela col beneficio di inventario, nonostante l'aspetto serissimo, costui è un gigione. Il titolo tratto dalla cronaca era «Falegname, tradito dalla moglie, si uccide con una sega». Sfido chiunque a non sogghignare immaginando quello che tutti voi avete immaginato. Benedetto uomo, con tutti gli scalpelli, i trapani, i martelli, i succhielli, le pialle, i punteruoli che aveva a disposizione, proprio quella truce lama dentata doveva adoperare per suicidarsi. Avrebbe ben potuto sospettare il ridicolo dell'eventuale titolo di giornale, ma si sa, in quei momenti uno, accecato dal furore della gelosia, non sta a guardare tanto per il sottile e afferra il primo strumento che gli capita tra le mani. Vero è che avrebbe potuto anche uccidere la moglie o il di lei amante con la medesima sega, ma deve aver pensato che la cosa non avrebbe avuto proprio lo stesso effetto e poi il titolo non sarebbe riuscito altrettanto bene. Ora dovete sapere che presso i ridenti lidi dove io dimoro alligna un amenissimo giornale quotidiano di consistente tiratura e ricco di riferimenti alla cronaca locale cui deve la tiratura medesima. Si tratta della Gazzetta del Sud, foglio di indefettibile dirittura ideale e coerenza politica. È sempre stato infatti filo governativo nella Prima Repubblica, finché il governo è stato democristiano, senza mai perdere le sfumature di simpatia per la destra, neanche adesso che è lacerato tra un democristiano a capo dell'Ulivo e l'antipatia campanilistica per Bossi, nutrita in un posto dove circa un quarto di secolo fa, seppure non esistevano spaventevoli terroristi no limits, scalatori di campanili, c'era però chi ergeva barricate per delimitare un quartiere che si era autoproclamato Repubblica. Sulle pagine di questo quotidiano, il 23 aprile scorso, ovviamente nella cronaca locale, spiccava il seguente titolo: «Bracciante gambizzato in un agguato». Il vezzo di coniare brutte parole come «gambizzato» o di usarne alcune già esistenti per altri significati, vi ricordate «tracimazione», è tipico dei mezzi di informazione. Una volta era prerogativa di importanti scrittori. Ciò vi dà la misura di quanto per certi versi il progresso sia simile alla fortuna, cioè cieco. Ma non possiamo farci niente. Purtroppo, o per fortuna, l'italiano è una lingua viva. E il progresso, come la fortuna, aiuta gli audaci e i dinamici. Sembra che edile si pronunci più velocemente di edile. Ebbene, gambizzare significa sparare a qualcuno mirando alle gambe, con lo scopo non di ucciderlo, ma di fornirgli un potente avvertimento di non immischiarsi nelle faccende della mafia o, una volta, del terrorismo, ed era di norma riservato a giudici e affini, i quali, conseguentemente alla gambizzazione, pur non avendo nessuna intenzione di piegarsi alla minaccia, erano impossibilitati a svolgere il proprio lavoro per tutta la durata della prognosi. Sparare alle gambe a un bracciante, cioè a uno che lavora con le braccia, più che un atto intimidatorio, diventa una mina posta sul confine di campi semantici fino al momento quiescenti. Perché se è vero che logica vuole che uno senza gambe può lavorare con le braccia, è anche vero che in pratica un bracciante ha bisogno anche delle gambe per lavorare. E dunque un bracciante non è solo uno che lavora con le braccia, anche perché è falso che un gambante sia uno che lavora con le gambe. E fin qui gli effetti di questo talidomide di piombo. Sono sicuro che avrebbero fatto la gioia di Achille Campanile se fosse ancora vivo. Ma come se non bastasse, l'occhiello precisa che dal momento che l'autorità giudiziaria rilevava un comportamento omertoso da parte del bracciante gambizzato nei confronti dei suoi aggressori, costui, udite, veniva denunciato a piede libero per favoreggiamento. E allora ditelo. Allora non è che ci siete, ci fate. Come fa uno che è stato gambizzato ad essere denunciato a piede libero? Dov'è mai più la libertà del suo piede? Chi addirittura denunciasse a piede libero un tetraplegico meriterebbe di essere preso a schiaffi, sia pure per interposta persona, dato che l'invalido non potrebbe prendersene direttamente la soddisfazione. La semantica stuprata dal luogo comune è una precisa scelta ideologica dei giornalisti, non è un incidente di percorso del linguaggio. È ancora vero che la legge non guarda in faccia nessuno e arriva fino in fondo, a costo di ravvisare responsabilità di reato anche nella stessa vittima. Ma la burocrazia potrebbe avere un po' più di rispetto per i limiti di adiacenza delle parole. Io stesso mi sono sentito un po' offeso nella mia persona di parlante e pensante quando, avendo avuto un incidente automobilistico tutto da solo, a tu per tu con una pozza d'acqua oleosa in autostrada, mi sono visto recapitare un verbale in cui non solo mi si contestava di aver prodotto danni al guardrail, bensì di essere stato il responsabile di un incidente che aveva provocato feriti. Ovvio che avesse provocato feriti, mi ero rotto il piede, l'unico ferito ero io, ma mi sembrava d'essere un ferito platonico, d'essere un ferito in generale, l'idea stessa di feritità. Ricordo di aver pagato la multa con la mimesi nel cuore.